day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down. Ciao, popolo della comunità invisibile, delle utopie cyberdada. Restate in ascolto, c'è una sorpresa. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice what the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Miei inafferrabili e utopiste e utopisti, vi ho finora invitati, evocati, convocati dalla rete, dalle trame del tempo, ma solo assenze sembrano avermi risposto. E anche se, come abbiamo detto a volte, l'assenza è la prima forma di presenza, la voce di altri senza voce come noi mi mancava. Ma ecco che, come per effetto di una magia elettronica, una voce reagisce. Quella di Maria Teresa Schiavino, poetessa, che si confronta con un pensiero della complessità, raccontandoci una storia dal titolo fortemente evocativo, Dizionario tragicomico della lotta, che mi fa rievocare Franz Kafka e il suo vertiginoso primo aforisma di Zurao, che dice: la vera via passa per una corda che non è tesa in alto, ma appena al di sopra del suolo. Sembra destinata a far inciampare più che ad essere percorsa. Ma ora ascoltiamo la nostra poetessa. Avec la peur qui prend la patte, le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître, le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers des étoiles froide sur la dalle, et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service, cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'il n'en peut être ni Dieu ni maître, cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu. Buonasera a tutti. Nel rettificare che non sono veramente una poetessa, ma piuttosto una persona che ogni tanto scrive, stasera vi leggerò alcuni paragrafi di questo incompleto, incompiuto dizionario tragicomico della lotta, scritto qualche anno fa per la rivista Coincidence. Primo paragrafo. Lotta eterna tra il bene e il male. Da che l'uomo sulla terra è dotato di coscienza, cerca di spiegarsi il perché della presenza del male, e cioè, perché non siamo tutti buoni? Perché esistono i cattivi, gli stronzi di merda, i crudeli, gli indifferenti, gli ostili, gli egoisti, gli egocentrici, i sanguinari, i guerrafondai, i dittatori, eccetera? Perché è chiaro che il problema del male nel mondo riguarda solo noi, la specie umana, dotata di ragione tale da porsi queste domande. Allora la parte buona dell'umanità cerca di contrastare come può la cattiveria individuale e sistemica dell'altra parte, e questo tentativo di contrasto si chiama appunto eterna lotta tra il bene e il male. Qualcuno, dotato di buona volontà, nel corso dei secoli ha cercato di darsi una spiegazione del perché di questa presenza nella storia. C'è chi ha cercato di spiegarne l'origine facendola risalire ad Adamo ed Eva, all'infido serpente che spinge Eva a mangiare il famoso frutto della conoscenza del bene e del male, che pare non fosse una mela, solo che male e mela in una certa lingua sono omofoni. Altri vanno ancora più indietro nel tempo, alla rivolta degli angeli contro Dio. L'angelo che aveva il nome più bello, Lucifero, se la prese con Dio perché voleva condividerne il potere. E Dio, per punizione, lo accusò di superbia e lo scaraventò nel più profondo dell'inferno, facendone un demone, il principio del male e dunque della lotta. Lo stesso demone, poi, per vendicarsi a sua volta, andò da Eva e le fece mangiare il frutto, qualunque esso fosse. Così Eva aprì gli occhi sul mondo appena creato e scoprì che vi era non solo il bene, ma anche il male, trascinando così tutte le generazioni a venire in una guerra senza fine. Ci sarebbe il male sulla terra se Eva avesse scoperto che nel paradiso terrestre c'era non solo il bene ma anche la mela e non il male? È stato forse tutto un qui pro quo? E quel demone che risvegliò Eva dal suo torpore non compì forse un'opera degna di rispetto? Cosa sappiamo del mondo al tempo di Eva e di quali ingiustizie sociali regnassero nel paradiso terrestre? E poi abbiamo forse dimenticato Caino? In ogni caso, da questa prima epifania della lotta nel mondo discendono tutte le altre lotte, forse anche quella per la sopravvivenza o vita, se si accetta la teoria della creazione rispetto a quella dell'evoluzione. In caso contrario, no. Qualcuno cerca di spiegarsi questa eterna contrapposizione dicendo che i disegni di Dio sono inconciliabili e quindi non possiamo essere sicuri che il male sia effettivamente un male, anche quando ci faccia molto male. Qualcun altro afferma una cosa più o meno simile, e cioè che il male è tale solo in apparenza, perché ciò che avviene risponde a un ordine superiore, armonico e razionale. Al di là della lotta perenne emerge l'unità dei contrari, male e bene, che è espressione dell'armonia e della razionalità del Logos. Dunque non dobbiamo arrabbiarci se ci fanno del male, e soprattutto non dobbiamo arrabbiarci se ciò che per tanto tempo ci hanno fatto considerare come il male, all'improvviso smette di esserlo. Questo avviene in politica soprattutto. Anche chi fa risalire il tutto a un principio supremo, nella fattispecie Dio, fondamentalmente buono, non sa spiegare la presenza del male nella storia, anche quando si tratta del male con la M maiuscola, un male così grande da non poterlo neppure nominare. Allora dice che Dio si è ritratto in se stesso per permettere agli uomini di esercitare la propria libertà, che sarebbe quella di fare del male agli altri. Perché in realtà poi è vero che il male esiste, ma è pur sempre un male relativo, nel senso che ciò che è il male per uno può essere il bene per un altro. Ciò che appare come un male, visto da un'altra angolazione, non appare poi tanto male, per cui la percezione di questo male cambia continuamente a seconda dei punti di vista, a seconda delle scuole religiose, politiche, economiche che prendono il soggetto in analisi. Ricordate il famoso racconto cinese e chi ti dice che sia un male e chi ti dice che sia un bene? Visto nello svolgersi degli eventi, il male potrebbe tradursi in bene e il bene in male. Portato alle sue estreme conseguenze, questo pensiero porterebbe in qualche modo alla esclusione di un possibile manicheismo, cioè una frattura netta tra il bene e il male, e alla paralisi della lotta. Paragrafo secondo. La lotta nella storia. La storia esiste per raccontare la lotta. La lotta di un individuo contro un altro, di una tribù contro un'altra, di uno Stato contro un altro, di un partito contro un altro. A cosa si ridurrebbe la storia senza questi momenti cruenti che ne costituiscono l'ossatura, che fanno da spartiacque tra le epoche, che transitano il mondo da una modernità all'altra? La storia, appresa con tanta noia e fatica nel corso di lunghi anni di scuola, è fatta di lotta, sovente all'ultimo sangue. La chiamano storia evenemenziale. Si pensava un tempo che le guerre, una delle forme che la lotta assume, fossero fatte per aprire le porte alla pace, il radioso avvenire, i domani che cantano. La fine della storia sarebbe la fine delle guerre, e ormai è chiaro che questa storia non può finire, almeno fino a che non sarà eliminato l'ultimo contendente. Il lavoro degli storici in questo caso consiste nell'analizzare da tutti i punti di vista singole battaglie, decisioni di condottieri e di primi ministri, eccetera, eccetera, eccetera. Come se, studiando gli eventi al microscopio, li si volesse rimpicciolire per depotenziarli. Solo nel secolo scorso alcuni giovani storici, stanchi di fissarsi sulla vita e le azioni delle classi superiori, ha deciso di cominciare a studiare come vivevano le persone normali, le classi più basse, quelle che si portavano sulle spalle nel corso dei secoli, il peso e la fatica di sfamare i condottieri, gli aristocratici, le corti e così via. È nata così la storia materiale, che potrebbe essere considerata la storia dei periodi di non guerra, quando tutti potevano svolgere più o meno in santa pace le loro occupazioni. Andare a bottega, fare mercato, coltivare la terra, tessere tele, scolpire pietre, costruire case, dipingere quadri, allevare bestiame. Si è scoperto che queste occupazioni restavano più o meno le stesse nel corso dei tempi e che il loro racconto ha dato origine alla storia di lungo periodo, che solo la lotta porta il mutamento all'interno dello spazio-tempo della storia. A volte nel corso della storia avvengono anche le scuse. Queste scuse non arrivano mai durante i conflitti, che spesso finiscono con l'annientamento quasi totale dell'altro. Le streghe, i nativi americani, i kulaki come classe, i comunisti, i fascisti, gli ebrei, gli azeri, gli armeni, i kosovari, i nativi australiani, eccetera, eccetera. Ma solo molti anni dopo, quando ormai è impossibile ridare vita ai morti, restituire la terra e le case ai legittimi proprietari, far rinascere tradizioni, modi di vita, gruppi sociali. Le scuse arrivano sempre dopo la conclusione delle azioni di sterminio. Solo dopo si riconosce l'orrore, l'ingiustizia, il furto. Si istituiscono giornate della memoria, mentre intanto qualcun altro viene oppresso, espropriato, scacciato, ucciso. Una spirale senza fine e senza senso. Aspettiamo infatti fra una cinquantina di anni le scuse degli israeliani ai palestinesi. Capitolo terzo, lotta per la sopravvivenza. Benché nata insieme alla vita stessa, questo tipo di lotta è stata scoperta e analizzata solo nel 1850. O almeno in quel periodo è stata chiamata in questo modo. Perché soltanto a quel momento della storia qualcuno, nella fattispecie un certo Spencer, ha deciso di dare un nome all'esistenza dello sfruttamento, della fame, della povertà, dell'ingiustizia sociale. Cose che sono sempre esistite e sempre esisteranno nella storia dell'uomo, chiamando tutto ciò lotta per la vita e per la morte. Il problema si era posto in realtà sin dai tempi dell'antica Roma, quando due fratelli, Tiberio e Caio Gracco, eletti tribuni della plebe, avevano cercato di mettere fine alla prepotenza dei grandi latifondisti di quei tempi che si appropriavano delle terre pubbliche e ci facevano lavorare gli schiavi, impedendo allo stesso tempo ai pochi contadini liberi rimasti sulla piazza di coltivare i loro miseri pezzetti di terra. I due fratelli cercarono di mettere fine a questo accaparramento con delle leggi, ma purtroppo, come la storia dimostrerà con testarda perseveranza più e più volte, furono presi in odio dai ricchi possidenti e uno dopo l'altro persero la vita senza che le cose cambiassero di un tanto. Trascorrono i tempi e si arriva alla Rivoluzione francese, passando per una serie di rivolte che non erano riuscite a smuovere la granitica composizione della società. Alcuni individui avevano messo in discussione lo stato delle cose, anche usando un po' le maniere forti, mettendo in mezzo storie di diritti dell'uomo in quanto tale e in quanto cittadino, portando il tutto fino alle estreme conseguenze dell'abbattimento del potere costituito. Un po' la storia dell'angelo e di Dio, solo che questa volta gli angeli riescono a spodestare Dio, almeno per qualche tempo. Ecco che una volta ristabilita la quiete e riportate le cose all'antico ordine, si sente la necessità di dare una fondazione filosofica a questo ordine, a questo stato di cose che appaiono palesemente ingiuste. Cosa di meglio dunque che far apparire questo ordine come un ordine naturale, derivante cioè dalla natura stessa, per cui può sembrare inclemente che un lavoratore reso inabile dalla malattia alla competizione coi suoi simili debba sopportare il peso delle privazioni. Può sembrare inclemente che una vedova o un orfano debbano essere lasciate alla lotta per la sopravvivenza. Ciò nonostante, quando siano viste non separatamente, ma in connessione con gli interessi dell'umanità universale, queste fatalità sono piene della più alta beneficenza, la stessa beneficenza che porta precocemente alla tomba i bambini di genitori malati, che sceglie i poveri di spirito, gli intemperanti e debilitati come vittime di un'epidemia. Questo bene universale, che non si sa quale sia in realtà, è formato dunque da tanti piccoli mali individuali. A questo punto le domande sono diverse. Può il bene, per definizione buono, essere formato dal male? E poi, del bene di chi stiamo parlando? Di che genere di bene stiamo parlando? Di un genere di prima necessità o di un genere di lusso? Perché in realtà il concetto di lotta per la vita e per la morte può andar bene per il mondo della natura, sul quale è stato elaborato a opera di Darwin. Quest'ultimo descrisse il concetto di lotta per l'esistenza basandosi sull'osservazione che gli organismi viventi, moltiplicandosi con un ritmo troppo elevato, si riproducono in maniera superiore a quella che le limitate risorse naturali possono sostenere e di conseguenza sono costrette a una dura competizione per raggiungere lo stato adulto e riprodursi. Ma si può pretendere di applicare questo modo di procedere all'uomo che con la natura ormai ha rotto tutti i ponti? O forse no? Forse al di sotto del pensiero, della ragione, eccetera, regna ancora l'uomo rettiliano, sublimato in multinazionale? Sono un mostro, nemmeno un santo. Il mondo m'ha mostrato com'è, appena un attimo, una goccia di sangue, e io ho detto va bene anche per me, con il carnefice davanti agli occhi. Stavo a guardare sempre notte e dì, visto il beccaio come macellava. Se questo è il mondo, a me piace così. Da quel momento ho detto sì a tutti. È meglio un vile che un eroe morto, per non cadere nelle mani a quei signori. Batto le mani a qualsiasi torto, i militari studiano nuove guerre e per viltà nessuno muove un dito. Io a testa alta e con il petto in fuori detto evviva i nostri difensori. I deputati dicono agli elettori che grazie a loro tutto cambierà. Non cambia niente, ma io dico subito, la colpa non è loro, è la realtà. Nei tribunali della legge condannano chi ruba per la fame. Santa è la proprietà, sacro il possesso. Fossi giudice anch'io, farei lo stesso. sono poliziotti che difendono l'ordine. Bastione indomito per la Marmaglia. Io sono il Guini. Viva la polizia finché protegge la roba mia. E gli scienziati studiano giorno e notte e preparano le armi di domani. Poi c'è chi li adopera, la colpa non è loro, fanno assai bene a lavarsene le mani. E non chiedetemi se voglio bene ai preti, come fareste a viverne senza, senza qualcuno che in mezzo alle disgrazie vi ricordasse che c'è la provvidenza. Ma intanto avanza l'imbianchino e io vorrei gridare attenti invece mai. Lascio che altro mi esca dalla bocca, che quel che grida tutti è grido. Di veder delitti e di soffrire per le vostre pene, se questo è il mondo che voi difendete in questo vostro mondo. Paragrafo 4. Lotta per le investiture. Allora sembra che, fino a un certo periodo della storia, i sacerdoti, i vescovi e persino il Papa fossero considerati alla stregua di pubblici funzionari che si occupavano dell'ufficio divino. Era l'imperatore, potere massimo riconosciuto, a elargire i titoli episcopali, le investiture, insieme a terre, domini, contee, eccetera. Ma il Papa si ribellò all'imperatore, avocando a se stesso il diritto di nominare i vescovi e di gestirne quindi i possedimenti, secondo quanto stabilito da Costantino ma revocato da Giuliano. Lo scontro più duro si ebbe tra l'imperatore Enrico IV e il Papa Gregorio VII, ma vi furono coinvolti anche Roberto il Guiscardo, Matilde di Canossa e altri personaggi minori. Il litigio ebbe termine, ma sarà poi davvero finita lì? Col concordato dei Vermi nel 1122, quando saggiamente si decise che il Papa avrebbe ordinato i vescovi e l'imperatore gli avrebbe assegnato le terre. A Cesare quel che è di Cesare, al Dio quel che è di Dio. Ma le terre, quelle non potevano non essere assegnate. Paragrafo 5. Lotta di classe. Sì, perché l'uomo, pur provenendo come tutti gli esseri viventi dalla natura, se ne è allontanato nel momento in cui ha cominciato a recintare e chiudere terre, decretando la nascita della proprietà privata. Questo in qualche modo rientra nell'interpretazione della lotta per l'esistenza, nel senso che il più forte usa il proprio potere di forza per prendere per sé ed escludere gli altri. In realtà è un sistema che esiste anche in natura, vedi i gatti e i cani quando delimitano il proprio territorio, ma i gatti e i cani si limitano a pisciarci sopra. L'uomo recinta le terre e poi costringe quelli che sono rimasti senza a lavorarle per lui, pena la morte per fame. Poi con i soldi accumulati compra le macchine e mette le fabbriche e di nuovo chi non ha niente è costretto a lavorare per lui, che intanto è diventato ricco oltre misura, per la sopravvivenza. Allora, secondo Carlo Marx, questo processo ha portato alla formazione di due classi, i ricchi e i poveri, oppure, detto meglio, dei capitalisti che hanno il capitale, cioè i soldi, e dei proletari che hanno la prole, cioè bocche da sfamare. Se ne può dedurre che chi ha soldi farà altri soldi, chi ha prole farà altra prole, non potendo far altro. Ma poiché grazie al lavoro dei proletari che il capitalista accumula il proprio capitale, i proletari hanno anche loro un asso nella manica, la forza lavoro. Se smettono di lavorare, addio fabbriche, merci, addio guadagno. Quindi queste due classi sono destinate a fronteggiarsi e a lottare fra loro per il possesso dei mezzi di produzione. Un piccolo errore di sopravvalutazione del potere della forza lavoro è stato il pensarla appannaggio di un gruppo coeso strettamente, capace di fare muro contro la forza dei padroni. In realtà, caduto il muro di Berlino, si è scoperto che i proletari di tutto il mondo sono tanti, infinitamente tanti, e che è molto facile per un padrone trovare altri proletari, anche in luoghi molto lontani dal suo paese, disposti a farsi rendere schiavi per sopravvivere. Si arriva dunque a diversi tipi di lotta. La lotta sindacale, quando i lavoratori organizzatisi in gruppi sindacali demandano ai sindacalisti la difesa dei propri diritti. Quando questo tipo di lotta fallisce, ecco che nasce immediatamente un'altra lotta, la lotta dei poveri per dividersi la merda. Dicesi quando i poveri lottano tra loro per la vita o per la sopravvivenza, non mettendo in pratica i principi dell'azione solidale, ma quelli del mors tua vita mea. Paragrafo 6. Lotta all'ultimo sangue. Che dire di questo tipo di lotta? Nasce come lotta estrema, tutta fisica, corpo a corpo, per evolversi su grande scala nel corso dei secoli. È una lotta che non ammette pareggi. Uno deve essere il vincitore, l'altro il vinto. Uno il vivo, l'altro il morto. Ultimo sangue, poi non ne resta più nel corpo. È stata in auge sin dai primordi dell'antichità. L'hanno combattuto i gladiatori nelle arene di tutto il mondo per il divertimento di qualche buon re. Eserciti fatti di uomini nelle cui vene scorreva lo stesso sangue si sono distrutti a vicenda sui campi di battaglia, combattendo per uno scettro non loro. A lungo gli uomini hanno segnato il loro territorio con il sangue. Hanno scritto le loro vicende a caratteri di sangue. Hanno versato il sangue dei fratelli, a cominciare da Caino e Abele. Hanno sparso sangue innocente, nei lager, nei gulag, nelle foibe, nelle purghe, nelle miniere, con le armi, con le carestie, con le guerre. Nelle due bombe esplose su Hiroshima e Nagasaki, dove il sangue si è liofilizzato, completamente sparendo dalla scena. Nel XX secolo il fluido biologico circolante negli umani è diventato un mito, il mito del sangue, base e fondamento della razza più pura. È stato anche scritto un libro al proposito, per spiegarne le motivazioni. Da questo libro molto sangue è scaturito. Per fortuna si è confuso nel fiume della storia e nessuno si sogna di rimpiangerlo. Ce n'è ancora qualche copia nella sua lingua originale, sepolta nei depositi di qualche biblioteca. Speriamo soltanto che gli insetti bibliofaci lo trovino di loro gradimento e lo divorino prima che qualcuno pensi di resuscitarlo e di servirsene di nuovo. Intanto, da analisi molto approfondite fatte sul tanto sangue versato, si è giunti alla conclusione che tutto il sangue è uguale. Oggi la lotta all'ultimo sangue è tornata di moda, o forse non è mai stata fuori moda. Dappertutto nel mondo gruppi di gente molto incazzata si fronteggiano con lo scopo ben dichiarato di distruggersi l'un l'altro, di privarsi del sangue, l'elemento che ci tiene tutti in vita. E allora bombe, mitraglie, cannoni, mine, kalashnikov, droni. Ma il sangue grida sangue. Per questo continuo gridarsi, la lotta all'ultimo sangue non sembra voler avere mai fine. L'unica cosa che potrebbe fermarla sarebbe forse un patto di sangue. In luoghi più sofisticati la lotta all'ultimo sangue si è spostata di livello, livello sesto, settimo, ottavo, e si conduce attraverso parole, parole, parole, fiumi di parole al posto di fiumi di sangue. Almeno così non ci sono sversamenti evidenti. Paragrafo 7. Lotta femminista. Prima di Eva ci fu Lilith. Di questo personaggio non si parla molto perché lei è un po' la pecora nera della famiglia di Adamo. La prima moglie, ma con poca voglia di ubbidire. Una vera ribelle come Lucifero e per questo motivo è stata cancellata dal libro. Condannata a una dannatio memoriae bella e buona. Poiché non voleva consentire a soddisfare i desideri di Adamo, ma rivendicava una propria autonomia sessuale e individuale, fu cacciata dal paradiso terrestre e sostituita con la più accondiscendente Eva, che però da vera gatta morta, fingendo ubbidienza, tradì Adamo con serpente. Che fine fece Lilith una volta cacciata dal paradiso? È la domanda che tutti si sono fatti almeno una volta nella vita, senza riuscire a darsi una risposta. Nel frattempo la stirpe femminile di Eva continua a popolare la terra, tenuta saldamente per i capelli dal patriarcato. Ma un'altra domanda da porsi è: qual è la vera ragione per cui Lilith fu scacciata dal paradiso? O se ne andò di sua sponte, stanca di dover ubbidire ad Adamo? Anche la disubbidienza può diventare faticosa. Dato che in quei tempi antichi uno non è mai solo ciò che sembra o che si dice, anche Lilith nasconde un'altra identità, come in un gioco di specchi e di rimandi. Pare infatti che questo sia uno dei tanti nomi presi da Astarte, dietro cui si nasconde la dea madre, la prima vera grande divinità femminile. Era considerata divina, e con lei tutte le donne, perché partoriva, dava la vita, e i maschi non potevano fare altrettanto e temevano che tale potere potesse annientarli. Poi, quando hanno imparato a contare, hanno percepito che c'era sotto un trucco come quelli dei prestigiatori. Un altro passo avanti e hanno compreso il loro ruolo nella procreazione. Così le gravidanze sono diventate per le donne debolezza e non più forza. Gli uomini avevano carpito il loro segreto, svuotandolo del divino che comunque possiede. Questo lascia intendere che Lilith non fosse stata creata dal fango, ma che fosse già ben prima del primo uomo e che Dio avesse cercato invano di addomesticarla, lasciando poi ad Adamo la gatta viva da pelare. Insomma, Lilith, esasperata, manda tutti a quel paese. L'Edene, naturalmente, quello che poi anche Adamo ed Eva si sarebbero giocati poco tempo dopo, e se ne va, abbandonando Adamo al suo destino. Ma Dio viene in aiuto della sua creatura e gli costruisce Eva, staccandogli una costola. Così lei non potrà sottrarsi ad Adamo, visto che è fatta della sua carne e delle sue ossa. Questo lungo preambolo per dire che Lilith vaga nelle retrovie della storia per lunghi secoli, manifestando la sua presenza puntualmente soffocata dal potere maschile. C'è tutto un mondo, non faccio nomi, che chiede autonomia e libertà e viene perciò costretto al silenzio con il diritto canonico, la segregazione, la morte, il fuoco. Le donne, eterne sciocche minorenni. Cammina, cammina, si arriva al secolo XVIII. Ancora lui, verso la fine, quando una certa Olimpe, nel pieno di una rivoluzione tutta maschile, crede di poter avere voce in capitolo e scrive la dichiarazione dei diritti delle donne e delle cittadine. Apriti cielo! Come si è permessa di dimenticare il suo ruolo e la sua condizione? Chi si crede di essere? Alla ghigliottina! Ma ormai la strada si è aperta, le donne non la smettono di manifestare e di andare per strada coi cartelli, è un andirivieni continuo di petizioni, richieste di voto, richieste di uguaglianza, richieste di lavoro, richieste di salari adeguati, richieste di diritti, richieste di libertà. I patriarchi non sanno che pesci pigliare. Nella loro arroganza continuano a servirsi delle donne quando gli serve, incensandole con il fumo della più bieca retorica, salvo poi, passato il momento, rigettarle in cucina nella cenere. Ma le donne non ci stanno più, vogliono tutto ormai, e lo avranno, tutto, ma proprio tutto, e anche di più. Vogliono riprendersi il lato Lilith, ma riusciranno a liberarsi del lato Eva? E, domanda tragica ma necessaria, sono loro a conquistare spazi o il potere, che ormai ha anche lui cambiato faccia, a concederglielo, manovrandole dall'alto? Chissà quando finiranno le domande. Intanto, come nel più classico dei thriller, proprio quando le donne sembrano aver preso tutto, un altro tragico nemico si delinea all'orizzonte. Paragrafo 8. Lotta per la verità. Mi chiedo perché tutto quello che scrivo debba cominciare da Adamo ed Eva. Come se ogni verità fosse possibile soltanto calandosi nelle profondità dei tempi e della storia per cercare laggiù il bandolo della matassa, laggiù dove tutto è cominciato, almeno per la nostra cultura giudaico-cristiana. Sarà una sola matassa a dover essere districata? O troveremo più di un capo perché il filo si sarà sfilacciato? Ma esiste davvero la verità? Questa è una domanda troppo esagerata per me. È troppo difficile, tant'è che una schiera di persone molto più qualificate si è per secoli interrogata su questo senza trovare una risposta soddisfacente e definitiva. Eppure c'è sempre un momento della verità, anche se non si sa mai quando arrivi, e se sia davvero quello il momento giusto. Forse il momento della verità è quello in cui le cose si rompono e non è più possibile aggiustarle perché ciascuno prende il proprio pezzo di verità e abbandona la scena. Ma una verità frantumata resta sempre verità. Oppure da quell'unica, come una ameba spaccata, ne nascono due, così che ognuno abbia la propria. Perché così succede di solito tra gli umani, in politica, dappertutto. Allora, come mi suggerì tanti anni fa un bambino, chiedo a internet. Milioni di pagine, non potrò mai leggerle tutte per arrivare a una conclusione, perciò abbandono l'impresa. Sarebbe bello avere una verità sola, facile e chiara come il sole, ma non è così. Anche nei processi per omicidio la verità non risiede mai tutta da una sola parte. Infatti, per tornare ad Adamo ed Eva, Caino uccise Abele perché sofferente di una forte forma di gelosia causata dal comportamento divino. E Dio non volle che fosse punito. Nessuno tocchi Caino, ma lo condannò a vagare per sempre con la sua colpa. La verità innegabile dell'assassinio è mitigata dal riconoscimento di un'ingiustizia subita, anche se non era il povero Abele ad avere colpa, ma Dio. Paragrafo 9. Lotta per la felicità. La felicità è la conseguenza di uno sforzo individuale. Si combatte per ottenerla, si lotta per lei, la si difende e qualche volta si parte per un viaggio intorno al mondo per cercarla. Bisogna partecipare senza sosta alle manifestazioni della propria beatitudine. E quando si è raggiunta la felicità, non si deve mai perdere la volontà di mantenerla, si deve compiere un potente sforzo per continuare a nuotare sulla cresta dell'onda, altrimenti si vedrà la gioia sfumare. Ecco qui una bella citazione sulla felicità. Ma vi sembra davvero così semplice? Con tutta la fatica prevista per conquistarla e mantenerla, mi chiedo se ne vale la pena. La felicità non sarebbe dunque in sé, ma nello sforzo per conquistarla. È davvero così che la vediamo? Eppure questa lotta è un diritto ed è scritta anche nella Costituzione americana. Forse non proprio in questi termini, ma in altri. A tutti gli uomini è riconosciuto il diritto alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità. Mi sono sempre chiesta perché questo diritto dovesse essere iscritto in una Costituzione, Magna Carta delle vite dei popoli, documento collettivo, quando la felicità è, credo io, in realtà epifenomeno individuale, condizione marginale rispetto ad altri diritti, ben più consistenti e necessari, atti ad essere sanciti da uno Stato, quali possono essere quelli al lavoro, a una casa, alla libertà, a un reddito giusto, alla dignità e alla cura. Questi sì che sono diritti, ma la felicità? Il corpo può sopravvivere senza felicità, ma sopravviverebbe senza cibo, senza farmaci. D'altra parte, l'assenza di tali diritti, casa, cibo, reddito, lavoro, cure, questo sì che condurrebbe all'infelicità. Situazione uguale e contraria alla della felicità. D'altra parte, mentre la felicità in sé sembra essere fenomeno sporadico e passeggero, l'infelicità derivante dall'assenza dei suddetti diritti può diventare cronica e definitiva. Uno stato da cui diventa impossibile uscire. Come mi insegnavano da bambina, si può essere felice anche con niente. Si è sempre detto che i soldi non danno la felicità. Questo ci metterebbe al riparo dalla necessità che tale diritto sia difeso dalle leggi. Dunque c'è un'incongruenza in una delle più importanti carte di diritti mai scritte al mondo e bisogna capire perché. Credevo che questa incongruenza si trovasse nella parola che designa felicità in americano. Che so, un errore di traduzione, magari la parola originaria voleva dire benessere, che potrebbe essere quasi sinonimo di felicità, nel senso di essere bene, stare bene, ma da un punto di vista economico più che psicologico. No, la parola è proprio quella, happiness, come in francese che si dice bonheur, per esempio. Bonheur potrebbe derivare etimologicamente da ora buona, almeno così mi piace pensare, e dunque attaccarsi al significato volatile della felicità come sentimento transitorio. I francesi non avrebbero mai pensato di mettere la felicità in Costituzione, perché le bonheur è uno stato d'animo, qualcosa che si prova uscendo dal lavoro, con la coscienza di aver fatto qualcosa di concreto, passeggiando lungo i quai, bevendo un pastis davanti al mare mentre il sole tramonta, tenendo accanto qualcuno che c'è caro. È un sentimento successivo, parte finale di una concatenazione di altri eventi sanciti, quelli sì, dalla Costituzione. E allora, lottare per la felicità, ma per quale felicità? A quale felicità si riferisce la Costituzione americana? Quella suggerita dai filosofi o quella suggerita dai mercati? In un dizionario etimologico, forse non dei migliori, trovo: dal Middle English hap, che significa chance, fortuna, caso, circostanza o buona fortuna. La stessa radice di perhaps e di happenstance, circostanza. Anche il dizionario trova strano l'attuale uso del termine happiness, viste le sue origini. L'etimologia suggerisce che non si tratta affatto della zen felicità, della contemplazione e del non attaccamento, ma quella del desiderio inestinguibile legato alla ricerca della fortuna, della propria chance, dell'occasione che fa l'uomo ladro. Una felicità che è fortuna, accumulo di fortuna, di oggetti, da soli contro gli altri, i simili ma non uguali. Non certo una felicità collettiva, da non confondere con quella del radioso avvenire, che pure si è rivelata fallace, fondata sulla difesa della dignità di tutti. On ne dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam avait-il un nombril? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il vu sa ciguë? L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert. C'était son manager. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. La vérité sur la palisse. Quand c'est rugueux, c'est pas lisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer. Est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque. A-t-il été déclaré au fisc? Napoléon mettait la main dans son giron. On nous cache tout, on nous dit rien. L'affaire Trucuchet, l'affaire Machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache Cachy, cache Tampon, Colin Maillard et Tartampion. Ce sont les rois de l'information. On nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Questa sorta di ricostruzione della storia delle lotte, raccontata quasi come una favola labirintica, squisitamente ironica, mi fa pensare al profilarsi di un paradosso, inteso come un pensiero che si scontra col modo usuale di vedere le cose, e dunque alla necessità di un cambiamento di paradigma, ergo all'utopia dell'emergenza di un pensiero complesso, perché, come direbbe Edgar Morin, un pensiero complesso riconosce l'importanza chiave dell'errore, la fragilità della verità, il mistero del mito, l'estrema complessità delle cose umane, l'avventura del divenire. Ed anche se, come direbbe sempre Edgar Morin, siamo ancora ad un'età del ferro planetaria, sproniamoci a dissolvere tutto ciò che fa schermo, a non abbandonare l'universo dei possibili per ciò che chiamiamo realtà, a spiare l'emergenza degli universi nascosti. la presenza di un terzo senso, secondo la nozione di Roland Barthes, l'evidenza di un terzo incluso, secondo la logica del cambiamento di Stefan Lupasco, o ancora l'avvenimento di un tertium quid. Avrei tanto ancora da dire, perché le parole di Maria Teresa invitano a profonde ed elettrizzanti riflessioni, ma per non far svanire l'effetto stimolante dei suoi dire, terminerei con una frase di Paul Feyerabend tratta dal suo libro Contro il metodo, abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza. La conoscenza è un oceano, sempre crescente, di alternative, reciprocamente incompatibili e forse anche incommensurabili. Ogni singola teoria, ogni favola, ogni mito che fanno parte di questa collezione costringono le altre ad una maggiore articolazione e tutte contribuiscono, attraverso questo processo di competizione, allo sviluppo della nostra coscienza. Ringraziamo Maria Teresa. E con voi, utopiste e utopisti, ci risentiremo come al solito tra una quindicina di giorni e seguite l'esempio di Maria Teresa, rendetevi visibili. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. Nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice what the fool on the hill sees, the sun going down, and the eyes in his head see the